Thank you. al ritorno curioso dammi il braccio mia piccina Thank you. Thank you. giorno e notte in ogni oggetto d'obbligare il bagno tengo il tuo viso sculto in petto col cambiarsi qual tu fai può cambiarsi ogni altro amore ma non può giammai il primiero uscir dal corpo Oh, Thank you. Oh, no. Oh! Oh,

Thank you. primavera。 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。